Ed è tutto per Effetto Giorno. Ringraziamenti Paolo Corleoni in regia, Grazia Gala in assistenza, Laura Faggini in assistenza e redazione, e tutta la redazione di Radio 24. Come sempre, scriveteci effettogiorno@radio24.it. La trasmissione torna domani alle 13. Noi ci risentiamo tra un attimo con GR24. Una buona giornata da Simone Spezia. Minuti non perdere tutti i convocati con Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Il meglio dell'attualità sportiva vissuta con ironia e condivisa con voi. Il segnale orario vi è offerto da Gran Moravia, con l'etichetta multimediale ti fa visitare la sua filiera ecosostenibile. Sono le 14. GR24, il sole 24 ore. La Grecia in apertura, Varoufakis lascia l'incarico di ministro delle finanze, voglio favorire l'accordo, dice, ma dopo il no al referendum in Grecia la tensione con i creditori e con la Germania resta alta, non ci sono presupposti per nuove trattative, tutto dipende dalle proposte di Atene, dice Angela Merkel. L'attesa per la Banca Centrale Europea dovrebbe mantenere la liquidità alle banche greche in attesa di decisioni politiche, e giù i mercati, Milano cede in questo momento oltre il 3% in netto peggioramento. Di Grecia torneremo a parlare tra un attimo in Europa 24. Il presidente della Campania De Luca ha varato la sua giunta, ci sono 6 donne e 2 uomini, il vice, quello che quindi potrebbe prendere il suo posto in caso di applicazione definitiva della legge Severino, sarà il deputato del PD Bonavitacola. È iniziato, dopo il decreto varato dal governo, il dissequestro dello stabilimento Fincantieri di Monfalcone, forse da questo pomeriggio gli operai potranno tornare al lavoro. Ed è tutto per GR24 che torna alle 15, linea dunque ad Europa 24. Europa 24. Buongiorno, buon pomeriggio da Daniele Biacchiesi. Dopo la netta vittoria del no al referendum greco, Tsipras punta ora ad un accordo con l'Europa in tempi brevi su nuove basi. Il risultato del voto ha provocato le dimissioni del ministro delle finanze Varoufakis, che ha annunciato l'addio su Twitter spiegando di non voler ostacolare l'intesa, aiutare il premier nel suo tentativo di arrivare ad un'intesa con l'Eurogruppo. Ma colleghiamoci subito per le ultime notizie da Atene in diretta la nostra Valeria De Rosa. Sì, buon pomeriggio Daniele. Atene oggi si è svegliata con la vittoria del no, ma con gli stessi problemi di ieri e ovviamente con le dimissioni del ministro delle finanze Varoufakis, come ne parlavi da studio sul tavolo. Dall'Europa fino a questo momento segnali non incoraggianti, la cancelliera Merkel, che oggi vede Olanda, ha detto che non ci sono i presupposti per nuovi negoziati, Dijsselbloem ha detto che l'esito del referendum non avvicina il paese a una soluzione, il vicepresidente della Commissione Europea Dombrovskis, pur ribadendo che il posto della Grecia è nell'euro, ha detto che il referendum ha complicato le cose. La riunione di tutti i partiti greci è in corso al Palazzo Presidenziale, lo ricordiamo, al Presidente della Repubblica Ellenica ha più volte in questi giorni richiamato all'unità il paese. I greci, che sono un popolo molto fiero, però sono anche molto realisti, oggi il sentimento che li attraversa è quello della speranza, quindi la speranza che possa cambiare qualcosa. Ancora dal punto di vista però politico, il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ha anche detto che la Commissione non può operare, non può trattare, non potrà negoziare fin quando non avrà un mandato chiaro e netto da parte dell'Eurogruppo, e quindi è tutto rimandato a domani. Per il momento da Atene è tutto. Grazie mille da Atene in diretta Valeria De Rosa, anche per il lavoro che ha realizzato in questi giorni. Tra Iraq e Siria ci sono circa 10.000 persone partite dall'Europa per combattere, mentre sono 25.000 a livello globale. Sono le cifre dei Foreign Fighters fornite da Eurojust proprio nella giornata di oggi, che però hanno sottolineato come queste non provengano dall'agenzia UE e sia difficile verificarle dalle numeri chiari su chi è partito effettivamente e chi è tuttora in loco e chi soprattutto è rientrato. In questi giorni la stampa sta diffondendo notizie circa la volontà da parte dell'Unione Europea di imporre all'Italia la produzione di formaggi senza latte. In realtà la Commissione Europea ha sì da poco inviato una diffida all'Italia nella quale chiede la correzione di una legge che vieta ai caseifici la detenzione e l'utilizzo di latte in polvere, ma bisogna chiarire che la questione non riguarda formaggi tipici italiani a marchio DOP o IGP come la mozzarella di bufala. C'è un rimedio per questo muro contro muro. Giovanni Lavia, presidente della Commissione per l'Ambiente, la Sanità Pubblica, la Sicurezza Alimentare e il Parlamento Europeo, propone un'etichetta per tutelare la scelta dei consumatori. Lo ha intervistato Anna Marino. Non c'è dubbio che la situazione è difficile semplicemente perché la Commissione Europea ha contestato una norma italiana. Ha chiesto di sapere per quali ragioni in Italia non è possibile, ai sensi della legge del 1978, commercializzare formaggi prodotti con latte in polvere o latte ricostituito. L'Italia dovrà rispondere e giustificare questo sulla base dei parametri qualitativi dei prodotti finiti, che vogliamo ovviamente tutelare. L'Unione Europea non impone i formaggi fatti con il latte in polvere, no. Ma dice devono essere usati anche in Italia. L'Unione Europea dice semplicemente, siccome 27 paesi si fanno, visto che all'interno siamo in un'area di mercato unico, per non ledere le regole della concorrenza e le regole del mercato unico, deve essere possibile far circolare questi prodotti realizzati in altri paesi, è ovvio che avremo una concorrenza in più per i nostri prodotti. Sarebbe utile poter cambiare la norma sul piano nazionale, cioè immagino un'etichetta dove con una banda obliqua sulla etichetta del prodotto ci sia scritto realizzato con latte in polvere o ricostituito, in modo da poter dare ai consumatori un quadro di informazioni complete. Poi sarà il consumatore a scegliere. Per realizzare questa etichetta quali tempi ci vorrebbero e come? Non basta una norma nazionale che si fa con la buona volontà in 30 giorni. Questa era la prima edizione di Europa 24 condotta e curata da Daniele Biacchesi. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.